Il risultato si è arrivati grazie a un pressing nell'amministrazione comunale rispetto al nuovo bando. E devo precisare che ovviamente non è un risultato totale, cioè che non va a coprire totalmente gli educatori che in estate non hanno di solito il lavoro, che sono a Bologna più di 500, ma è la via, secondo noi, giusta per iniziare a ristabilire una situazione di continuità lavorativa. Quindi praticamente in un accordo pre-bando con il comune, con l'amministrazione, i sindacati, compreso l'SGB, hanno accordato che ci fosse un punteggio maggiore alle cooperative che presentavano dei progetti per dare continuità estiva. Questo è stato fatto, la cooperativa che ha vinto, che era quella precedente, ha presentato un progetto per 12 centri estivi e l'amministrazione comunale ci ha dichiarato che sta valutando quali dargli, ma glieli darà. 12 centri estivi da gestire, questo per noi vuol dire passaggio importante, non è la risoluzione per tutti, però diciamo è un'impostazione che va a cambiare, dove appunto vengono a mancare 12 centri estivi ai centri sportivi, che di solito invece retribuiscono gli educatori stessi a rimborso spese. Perché appunto in questi anni abbiamo visto di tutto, appunto. Sì, infatti solitamente accade che finisce la scuola i primi di giugno, tutti restano praticamente disoccupati nonostante hanno un contratto a tempo indeterminato e si lavora pochissime ore per chi riesce, per chi non riesce ci si prova a fare degli ammortizzatori sociali che quest'anno non sono neanche ancora riusciti ad averli, cioè nel senso che ancora il nuovo ammortizzatore sociale che si chiama FIS non è stato neanche detto se sarà approvato o no dall'INPS, quindi tutte le persone sono rimaste praticamente senza ammortizzatore sociale e senza lavoro, nonostante hanno un contratto a tempo indeterminato. Dalla prossima estate, con la continuità educativa che già avevamo ottenuto negli anni passati rispetto all'handicap, più questi 12 centri estivi da gestire, sicuramente aumenteranno le persone che riescono a dare continuità lavorativa, ma più che altro è importante che si entri in una logica di continuità lavorativa estiva garantita dalla cooperativa e dai servizi. Ricordavi insomma che la battaglia non è ancora finita, c'è anche, oltre al tema della FIS, anche il tema dei buoni pasto, giusto? Sì, di buoni pasto. In realtà non si tratta di buoni pasto perché quelli sono previsti dal contratto per chi fa 7 ore, misere 3,50 euro. In realtà si tratta proprio del diritto al pasto per tutti coloro, gli educatori che lavorano dentro le scuole in orario in cui si mangia, dove assistono magari i bambini disabili oppure fanno dei servizi di mensa insieme ai bambini. Ecco, attualmente non è riconosciuto il pasto all'educatore, cioè rimane praticamente a digiuno. Quindi questa è una battaglia, diciamo, storica degli educatori, avere il diritto al pasto sia per motivi pedagogici rispetto ai bambini con cui si va a intervenire, ma soprattutto anche per motivi di dignità del lavoratore stesso, che è costretto a lavorare rimanendo intere giornate a digiuno. E certo, questo purtroppo non siamo riusciti ancora ad ottenerlo, nel senso che il comune non l'ha messo come obbligo, come chiedevamo noi, all'interno dell'appalto, e la cooperativa, che ha la palla, diciamo, in mano, sta facendo delle valutazioni, ma a quello che ci è sembrato di capire, cercando di darne il meno possibile. Ora siamo in fase di discussione, ma insomma non è ancora garantito, ecco, questo, il risultato ancora non c'è, ci sarà ancora da battagliare. Secondo te cosa ha fatto cambiare idea al comune, che in passato aveva avuto un'altra linea, insomma? Io penso esclusivamente le pressioni fatte dai lavoratori e dai sindacati che li rappresentano, perché comunque veramente sono anni e non possono non dire che non abbiamo ragione, perché le condizioni lavorative di persone che sono a tempo indeterminato, che sono comunque in appalto del comune e che rischiano, perché poi adesso appunto l'ammortizzatore sociale non si sa neanche se lo daranno e quando lo daranno, perché quest'estate sono rimasti tutti praticamente senza, nonostante siano stati firmati alcuni accordi, in qualche modo diciamo costringono l'amministrazione comunale, in qualche modo diciamo anche lì la responsabilità e i rischi vanno tutti sulla cooperativa, perché l'amministrazione comunale ha dato più punteggio a chi si è offerto di fare i centri estivi. La cooperativa si prende questo rischio, ma si prenderà anche gli introiti, ovviamente, ed è giusto che sia così. La cooperativa deve garantire 12 mesi all'anno di lavoro, non può dire io non ho più lavoro in estate perché c'è solo l'appalto estivo e ti lascio a casa. Se fosse occasionale può capitare, diciamo, che si va in cassa integrazione, ma siccome questo è strutturale bisogna trovare una soluzione.